Palla Spicchi con Carlo Genta. Buon pomeriggio a tutti, ciao Fabio Suardi. Ciao Carlo, buongiorno, buongiorno a tutti. Coach? Ciao Dan amici Peterson. Sportivi, ciao Flavio. Non sei latitante questa settimana, bentornato. No, okay? No. È da un po' che non sono latitante. Okay. Vado a Cuba da qualche tempo. Coach, è tornato a trovarci Davide Pessina. Ok Davide, un abbraccio. Okay? Buongiorno. Senti, grazie Davide. Grazie a voi. Grazie di essere tornato. 800-24-0024 è il numero verde per intervenire. Io partirei dalle notizie della notte che arrivano dagli Stati Uniti. Perché? Perché le due pretendenti al titolo, quelle che dovrebbero incontrarsi in finale, quelle che dovevano passeggiare, in realtà allungano quantomeno la passeggiata. Ha perso sia Cleveland a Chicago, 108-106, 31 punti di Rose, serie sul 2-1. Stesso discorso per i Lakers a Oklahoma, 101-96. Kevin Durant finalmente entra nella serie, ne fa 29. Poi anche la vittoria di Phoenix a Portland, 108-89, con Jason Richardson che ne fa 42 con 8 su 12 da 3 punti. Mica male, coach. Innanzitutto avevo un po' pronosticato le serie Cleveland 4-0 e Los Angeles più o meno 4-1, quindi Cleveland non fa più 4-0. E ovviamente queste sono la prima squadra da parte est, Cleveland contro l'ottava che è Chicago, la prima ovest che è Los Angeles Lakers contro l'ottava che è Oklahoma City, e ovviamente ricordiamo pochi anni fa quando i Dallas Mavericks ottava hanno perso proprio contro Golden State, che era primo, contro Golden State che era ottava. Quindi può succedere di tutto, non succede molte volte, ma questa è la prova che è possibile. Io penso che Cleveland e Los Angeles passeranno il turno, ma Chicago e Oklahoma City hanno dato indicazioni di grande serietà. Due commenti. Uno, non solamente Kevin Durant 29 punti, 19 rimbalzi e marcato Kobe Bryant. L'altra cosa che Vinny Del Negro, che ha avuto questa scontro violento fisico con il suo general manager, prima volta che lo sente nell'NBA, magari fanno discussioni dietro le porte, ma è uno scontro proprio mani addosso, non ho mai sentito nominare, che sembrava ogni giorno sull'orlo del licenziamento, adesso si è qualificato per i playoffs e adesso ha vinto una partita contro Cleveland. Io vorrei vedere come andrà a finire quella storia. Mani addosso anche da noi, sta succedendo. Sta succedendo anche da noi, nervi tesi, comincia la stagione, Davide, nervi tesi, brutta storia tra Frates e Luca Banchi, due giornate di squalifica per Frates, c'è il ricorso, filmati, magari gli fanno uno sconto, però la stagione dei nervi tesi è cominciata, non c'è solo Vinny Del Negro col suo general manager. No, quando si comincia a far sul serio è chiaro che la tensione sale, anche il nervosismo, insomma, anch'io non ho mai sentito molto di scontri fisici tra general manager e allenatore. Però è chiaro che la tensione aumenta, insomma, si mettono in palio i trofei finalmente. Coach, innanzitutto devo fare una differenza qui. Frates e Manche sono due persone da due società diverse, avversari, ok? Non approvo assolutamente lo stesso, però si capisce che sono avversari, nemici, fra virgolette, se vogliamo dire. Paxson e Del Negro sono della stessa società, cioè loro devono essere assolutamente loro due, come dicono in America, sulla stessa pagina, ovviamente non lo sono. Senti, togli una curiosità, secondo te chi passa nel derby texano? Voilà, io avevo pronosticato San Antonio, vado con San Antonio tuttora, perché ovviamente Duncan deve essere in buona forma, e lo è, Ginobili deve essere sano fisicamente, e lo è, Tony Parker deve essere recuperato dall'infortunio, e lo è. E aggiungo un'altra cosa, uno, non so chi, Richard Jefferson, invento un nome, o un altro giocatore, deve fare un contributo degno, non possono vincere con solo tre, ma se loro trovano, e Greg Popovich, in questo coach Greg Popovich è un mago, un super allenatore, lui è bravo a riconoscere chi è in partita questa sera, quando stiamo a giocare, non domani, non ieri, ma questa sera, e quindi loro sono pericolosi. Ovviamente Dallas è favorito, però San Antonio ha strappato almeno il vantaggio campo. Coach, ti volevo chiedere invece conto delle altre serie: Boston 2-0 su Miami, yeah. Atlanta 2-0 su Milwaukee, Orlando 2-0 su Charlotte. Guarda, sono 3-0, 3-0 scontate per te? Tutte le altre 2-0. Io avevo pronosticato delle sorprese nell'Ovest, tanto per pronosticare, però avevo pronosticato Miami batte Boston. Invece non sembra che Boston per un momento si è rinata, si è messo le cose a posto, ha recuperato gente infortunato, Garnett sta rendendo un po' che lui è uno degli aghi della bilancia, perché lo dicono in America, l'ho chiamato the big ticket, cioè il grande biglietto, okay? E dicono che è un ticket falso, dicono, perché non è così grande come campione, dicono in America, ok? Molte sono critiche di lui, però lui è un pezzo della macchina, se lui dà il suo contributo, loro tutto gira molto meglio, poi è un difensore, rimbalzista, esperto, punti, fa anche altre cose, però loro sono una squadra per me fragile, in cui tutto deve filare perfettamente, cioè Pierce deve essere in giornata, Allen in giornata, Rondo in giornata, Perkins non fare stupidate e Garnett in giornata, però la squadra è fragile, se manca una tessera a questo mosaico crolla il muro. Davide, poi come sai arriverà anche un tuo amico Flavio Tranquillo, a cui ho fatto fare al massimo della mia cattiveria il tabellone la settimana scorsa, e lui aveva detto come il coach passa Miami su Boston, Lakers 4-0 facile, poi possiamo pagare il conto. Beh sì, però in effetti sono playoff comunque difficili da pronosticare, è vero che probabilmente andrà come è stato detto, però con qualche più difficoltà del previsto per Cleveland e per Los Angeles, e Miami-Boston potrebbe andare anche alla sesta, alla settima. Tu vedi finale Cleveland-Los Angeles, vincente Cleveland come molti? Come lo in linea di massima, sì, in linea di massima sì, Cleveland, le due squadre sì, più attrezzate. Cleveland favorita? E poi bisogna vedere, perché lì può succedere di tutto. Io credo che Cleveland sia forse anche un po' più completa dei Lakers nelle varie situazioni, però è chiaro che soprattutto nell'NBA, nei playoff, bisogna vedere chi riesce ad adattarsi meglio, a trovare delle soluzioni anche in corsa che a volte possono fare la differenza. Venite a pagare il conto, ragazzi, io ve l'ho detto all'inizio, venite a pagare il conto. Coach, volevo chiederti ancora una cosa, ho letto un'intervista molto bella su Superbasket di Trinchieri, coach dell'anno probabilmente, quantomeno in pectore di Cantù, e cioè, racconta la storia di quando veniva da ragazzino a vedere i tuoi allenamenti e racconta di un pre-partita finale con Caserta, con la Caserta di Oscar, racconta che tu hai detto: quando Oscar prende la palla voglio 5 body check, ognuno di voi deve portarmi un pezzettino di lui, a proposito di mani addosso. Ringrazio Trinchieri per la pubblicità. No, io ho detto che volevo che Oscar, probabilmente l'ho detto esattamente quello che ha detto lui, okay? Però io volevo vedere Oscar, uno, lavorare in difesa, sì. E volevo chi lui, se lui marcava Barriviera correva, marcava Barlo correva, se marcava Premier correva, cioè corre e andare da un lato al campo all'altro sfruttando i blocchi, lascia lui, stanchiamo lui fisicamente gambe, polmone e poi anche i muscoli incontrando blocco, poi difesa addosso. L'altra cosa che ho detto, se lui guarda in basso Oscar, vuol dire che va in alto per tirare, ti inganna guardando in basso, tu dici Oscar sta per andare uno contro uno, lascialo fare uno contro uno, ok? Non abboccare la finta, tenere il corpo eretto, mano alzata, e poi se tu sei addosso a Oscar, lui mette la palla dietro la testa, fa una fiondata, neanche un tiro, una fiondata, perché vuole tirare a tutti i costi. Cioè, queste sono le cose che ho detto di Oscar. Poi qualche volta ho detto, vediamo se Oscar riesce a fare canestro e mette sdraiato per terra. Sì, poi non hanno detto la cosa. Poi il coach è finita, in che modo è finita quella partita? Con Oscar espulso, peraltro. Beh, no, Oscar sì. Espulso per falla di reazione. Ma gli ultimi due anni che ho narrato, cioè 86-87, cioè 85-86, 86-87, abbiamo fatto le due finale contro di loro, il primo anno è stato l'ultimo anno di due partite per vincere la finale, abbiamo vinto 2-1, l'anno successivo in finale è diventato 3 solamente per la finale e abbiamo vinto 3-0, quindi 5-1 contro Oscar, lui ha fatto sempre 27 punti probabilmente di media, non so le statistiche, però io ho detto ok, che faccio 27, vuol dire che non tira Gentile, non tira Esposito, non tira Dell'Agnello, e vuol dire che si fermano, non giocano difesa, non sono coinvolti, ma facciamo lui fare 27 tiri, se mi fa 27 punti con 27 tiri io lo accetto. Ah, certo, firmi subito e vinci lo scudetto come poi hai fatto. Grazie coach. Ciao ragazzi, ciao Davide, ciao coach. Tutti. Palla spicchi. Allora, ascoltatori, Massimo da Cremona, Giuseppe da Potenza. Massimo, salve. Buongiorno. Buongiorno. Di solito chiamavo così, in modo allegro. Oggi un po' più preoccupato, immagino. No, incavolato. Incavolato. Perché? Perché lasciamo stare quello che sono apparso sui giornali qui di Cremona, una diatriba tra Cioppi e Caia che non so quanto che trova. Però dati alla mano, a Caia sono stati presi tre giocatori che servivano anche a Cioppi, ai quali però non sono stati presi. Dati alla mano, sono 4-5 partite che su di 10 si perde, su di 15 si perde, si parla, si va a Montegranaro a prendere un 22-2 in 5 minuti. Adesso io Ferrara l'ho vista qua a Cremona e mi sembra molto più squadra rispetto alla Vanoli. Pesaro è a 20. No, Pesaro secondo me ormai è fatta, ormai è salva, è anche la squadra del momento, mi pare. Pesaro che ha battuto, la Virtus nell'anticipo della, non di questa ma della prossima giornata. No, Pesaro la vedo già fuori dai giochi. Cremona invece lotterà fino in fondo, Davide. Sì, probabilmente sarà una lotta fra Cremona e Ferrara fino alla fine, con credo il rischio anche di Biella di rimanere risucchiata in un eventuale arrivo per la salvezza. Però Pesaro è adesso è avanti, è vero che riposerà perché deve, insomma, sì, avrebbe dovuto giocare con Napoli, però a 2-0 con Ferrara per esempio già questi scontri diretti sono un vantaggio. In linea di massima dovrebbe essere una corsa Cremona-Ferrara. Ma secondo te ha ragione l'ascoltatore? Ha ragione, è chiaro che ci sono dinamiche particolari. Io credo che insomma quando sono arrivati all'esonero di Cioppi per poi prendere Caia, credo che dietro questo sia stata probabilmente anche qualche incomprensione con la società, non lo so. Poi nel momento in cui cambia allenatore è vero che arrivano anche altri giocatori che avrebbero fatto comodo anche all'allenatore precedente, ovviamente, però sono poi scelte che una società fa. Io credo che la situazione di Cremona sia complicata, ha perso tante partite anche di un punto, manca forse un po' di fiducia aggiungendo giocatori che sicuramente sono utili, però devi trovare nuovi equilibri. Per cui insomma io credo che avrà da lottare fino alla fine. Prima davamo un'occhiata ai calendari, è leggermente meglio quello di Cremona. Ma se vuoi lo possiamo velocissimamente andare a riassumere. Allora Cremona deve giocare, Ferrara deve giocare questa settimana in casa contro Montegranaro, mentre Cremona va a Bologna contro la Virtus. Sì. Poi nel prossimo turno, adesso te lo so dire, comunque in generale è il prossimo turno, allora Cremona va a giocare con Teramo in casa, mentre invece Ferrara va a giocare a Treviso contro la Benetton. Quindi poi abbiamo un Cimberio Vanoli l'8 di maggio e Ferrara Caserta sempre quel giorno. E l'ultima Ferrara giornata, con Biella, esatto, potrebbe essere una partita Biella-Ferrara e Cremona-Avellino. Sì, potrebbe essere uno spareggio per una partita. Si potrebbe arrivare a quello. Io credo che il discorso del calendario sia anche legato al momento in cui si gioca, nel senso che se Varese vince una partita nelle prossime, insomma, salva, è poco da chiedere, come Teramo non ha troppo da chiedere, invece Avellino ancora qualcosa. Insomma, bisogna vedere anche appunto nel momento in cui si incontreranno queste squadre che importanza di classifica avranno. Cioè, facciamo un plauso al Nenel Brindisi che torna dopo secoli nel basket, che conta campionati impeccabili. Enzo D'Altamura, ma sì, certo, lo facciamo un applauso a Brindisi, è stata una festa straordinaria. Poi, una piazza con grande entusiasmo, io mi ricordo ancora gli anni 80 in cui giocava il mio amico Chico Fischetto, poi il mio americano che aveva giocato con me, Otis Howard, c'era molta passione, Elio Pentassugli allenatore, per cui allenatore. È una povero piazza storica, Maragoli, bandiera di quella squadra, per cui sicuramente bentornati più che benvenuti, perché non ripeto, una piazza storica dove c'è grande entusiasmo. Sono così un palazzetto, perché sennò dove li metto? Giocano in piazza. Però insomma è importante che ci siano piazze di questo tipo. Sì. Giuseppe, da Potenza. Buongiorno, grazie per lo spazio concesso. A lei, dica. Un parere tecnico su Bruno Cerella, guardia della Banca Tercas, dal grande Davide Pessina. Grazie. Ma quest'anno ha trovato meno spazio, l'anno scorso aveva trovato più spazio nella stagione ottima della Banca Tercas, aveva, uscendo dalla panchina, anche dei momenti, dei minuti importanti. Quest'anno un po' meno, e credo sia finito un po' nella situazione non semplicissima, insomma, della Banca Tercas di quest'anno, per cui anche lui ne ha risentito per minuti, responsabilità, insomma, e ruolo in campo. Però è un giocatore sicuramente interessante, un giocatore che si è affacciato anche alla nazionale, un giocatore con buone qualità. Ripeto, quest'anno un po' penalizzato dalla stagione della Banca Terca. Spero un giocatore che io credo che possa avere minuti di qualità in tante squadre. Non è facile, per quanto riguarda la squadra, non è facile ripetersi dopo quello che avevamo fatto l'anno scorso. Quindi perché anche David Moss è andato via, non sempre riesce a trovare il giocatore che ti fa fare il salto di qualità. Sfortuna con gli infortuni, scusate il gioco di parole. Poi Poeta non ha fatto esattamente il salto di qualità. Esatto. Però è vero che sta lavorando su altri aspetti del suo gioco. Sicuramente per lui ci sta alla sua età un anno di questo tipo, di transizione, di crescita, di miglioramento, anche se l'anno prima ha fatto molto meglio. È un 86, ricordiamo, un 8 minuti di media partita, ha giocato al massimo 20 minuti in stagione come Heidi. L'anno scorso ricordo anche nei playoff. L'anno scorso aveva la rotazione, era entrata, aveva giocato una serie con Milano dei minuti importanti, sicuramente aveva avuto più spazio. Oggi tanti ascoltatori, mi fa piacere. 800 24 00 24, numero verde. Andiamo a Roma, poi torniamo a Milano. Luca, buongiorno. Senta, io volevo aprire una breve finestra sul mercato dell'Olimpia Milano. Sì. Sono tifosissimo, avrei voluto parlare in trasmissione quando c'era Mister Gamba qualche settimana fa, per concordare con lui per alcune prestazioni disarmanti, soprattutto in trasferta ultimamente dell'Olimpia. Sì. E per guardare il mercato vorrei aprire una considerazione paradossale. Non so se il pazzo sono io o di chi non fa questa considerazione. E so che Milano da qualche settimana cercava un sostituto di Acher o comunque uno straniero forte con punti nelle mani. Sì. Si è fatto il nome di Campenas, di altri, ma tutte persone che comunque invischiate in playoff o in impegni per i nuovi campionati non verranno mai. Allora a questo punto vi chiedo, ma perché non provare a prendere il più forte di tutti, che è l'unico giocatore che di playoff non li giocherà e probabilmente l'ultimo anno in cui non li giocherà? Io adesso non so se fosse possibile avere un escape per lui, ma nessuno ha pensato di provare a chiedere a Danilo Gallinari se vuole venire a giocare in playoff. A parte questo, comunque c'era una regola, lo spiegavamo anche la settimana scorsa con Carlo Recalcati, c'è una regola molto precisa che impedisce ai giocatori che sono sotto contratto NBA di spostarsi, devono essere rilasciati dalla squadra di appartenenza prima della fine della stagione, quindi non è possibile andare a cercare dei giocatori che militino in squadra NBA mentre la stagione non è ancora finita. Dunque dovrebbe essere tagliato prima della fine del campionato, e quindi non è comunque più possibile che il campionato di Knicks è finito. Peraltro adesso Milano si trova anche a dover andare a cercare un sostituto, credo, di Petravicius, che si è fatto male di nuovo. Si parla di Santiago, Hacker tagliato, poi non si sta cercando, andando avanti un po' a tentoni, mi pare, nella ricerca della sensazione ogni tanto, la ricerca di un altro americano. E adesso poi peraltro sembra essere finito un po' in disgrazia Maciulis, perché ciclicamente c'è un giocatore che viene accantonato, poi magari ripreso, insomma, non tantissima chiarezza. No, e questo credo sia il grosso problema, non c'è grandissima chiarezza, secondo me c'è stata anche a volte poca tempestività nel prendere decisioni, tipo Hacker è una storia che è andata avanti 4 mesi, prima era infortunato, poi non era infortunato, poi è rientrato, poi non rientra, lo aspettiamo, non lo aspettiamo, e poi si è deciso di tagliarlo per vedere cosa c'è. Questa è una cosa che ti porti avanti. Adesso c'è il problema Petravicius, che sembra abbastanza serio, per cui davvero devi cercare un centro in sostituzione. Potrebbe essere Santiago, però allora a quel punto il discorso diventa se cerchi una guardia comunitaria o extracomunitaria. Insomma, la cosa si complica. Però questa secondo me è un po' la sensazione che ha dato l'Olimpia negli ultimi anni, nel senso che magari riusciva a ottenere risultati, come arrivare in finale, come comunque giocare i playoff ad alto livello, e ti aspetti che magari dall'anno prossimo ripartissero da lì, invece era tutto da ricostruire sempre. E questo secondo me è stato un po' il grosso errore di Milano, ma non solo, ma di tutte le antagoniste di Siena, che riuscivano magari a arrivare a Roma, per esempio, Bologna, che arrivano al punto dove arrivi a giocare la finale, la semifinale, da lì prenderlo come punto di partenza, invece veniva sempre tutta ribaltata la squadra. Ricominci da capo e diventa un problema. Ignazio, provincia di Milano. Buongiorno. Io telefono perché questa domanda che ho da vecchio appassionato, io ci tengo in particolare alla nazionale, ho tentato venerdì per scoprire che c'era Gamba per fare questo, ma la ripeto, io dico, le altre nazionali, la Francia, Germania, per non parlare della Spagna con i due Gazzole e compagnia bella, non hanno problemi secondo me quando la nazionale chiama i loro NBA. Come mai noi con i nostri abbiamo sempre questo dubbio se possono giocare? E poi un'altra cosa che ci tengo in particolare, qua in zona tra Ropa, Rabiago, Novate, c'è un torneo internazionale che secondo me a livello giovanile è uno tra i più importanti, non in Italia ma in Europa. Per dire, c'è Ortez di Francia, sì. Salonico Grecia, Zaira, sì. I lituani del Riga, poi per non dire in Italia c'è Cantù, Varese, Armanigis, Cavolini, Virtus. Sì. E da questo torneo sono venuti fuori giocatori come Pitis, Bosa, sì, che Davide Pessina conoscerà benissimo. Sì, sì. Sì, per sappiamo, ultimo Aradori, è un torneo importantissimo a livello giovanile e che ha spesso incoronato, consacrato o fatto vedere per la prima volta dei grandi campioni. Meno male che ci sono, insomma, queste manifestazioni. Io la ringrazio, la rispondiamo però dopo la borsa sul discorso nazionale, perché è la domanda del momento, no? Arrivano i tre re magi dagli Stati Uniti o non vengono? Forse sì, forse no, si operano, si devono riposare, cosa fanno? È il domandone del momento. In Spagna è un po' diverso, perché lì abbiamo visto gente come Garbaosa litigare con la franchigia appartenenza nell'NBA Toronto e andare a giocare con le stampelle, però credo che l'ambiente sia di quella squadra sia un po' differente. Palla spicchi. Dunque, dove eravamo rimasti? Cioè, Emilio, provincia di Cosenza, che è già lì, 80024. Alla nazionale, al domandone. Sì, sì. Peraltro, Carlo e Davide, scusate, ci sono anche diversi messaggi che chiedono questo, ma alla fine i nostri tre italiani d'America risponderanno o no alla convocazione estiva di Pianigiani? Chi vince il Festival di Sanremo? Chi vince il Giro d'Italia? Il Giro d'Italia? Riuscirà l'Inter a far fuori il Barcellona? Domandoni del momento. Riuscirà l'Inter a far fuori il Barcellona, Davide? Cosa devo dire? La risposta diplomatica o la risposta... Quello che pensi. Spero di no, ma temo di sì. Da milanista. Di Balotelli cosa mi dici? Dico che secondo me è un giocatore fortissimo potenzialmente, ha qualche problemino di relazione con i compagni. Probabilmente è lui il primo a essere molto infelice. Io credo che, insomma, dargli continuamente contro non so se sia la soluzione migliore. Chiaro che lui debba... Poi quando se ne va a cercare... Esatto, chiaro che anche lui debba fare qualche passo, soprattutto credo all'interno di uno spogliatoio dove qualcosa si deve essere incrinato pesantemente. Lui, ripeto, secondo me lui ha i suoi motivi, poi probabilmente ha un carattere particolare. Gli altri devono dargli incontro, ma lui deve anche dare la possibilità agli altri di andargli incontro. Non so come dire, una compartecipazione di colpa. Sì. Dimmi. Ah, no, vai col domandone. Il domandone. Vengono i re magi. Andrebbe chiesto a loro. Sinceramente non lo so. È chiaro che è una situazione delicata, perché sono ragazzi giovani all'inizio della loro carriera NBA, per cui non sono ancora affermati, come può essere Nowitzki, come può essere Tony Parker, come può essere... Insomma, questi Gasol, questi grandi giocatori che vengono e hanno comunque già un ruolo consolidato di là. Loro devono ritagliarselo questo ruolo. E poi è chiaro che sono in due società, in due franchigie che hanno avuto qualche problemino, diciamo, quest'anno, per cui vogliono puntare molto sull'anno prossimo, soprattutto New York, per cui lavorare anche nel corso dell'estate può essere importante per loro. È chiaro che tanto, secondo me, dipende dalla loro volontà, perché arrivi a un punto dove sì, capisci le necessità delle franchigie, capisci tutto, però se loro si impuntano io credo che in qualche modo possano venire. Sì. È chiaro che bisogna capire se è il momento per impuntarsi magari quest'anno, non ma invece l'anno prossimo, una volta qualificati, che fai gli europei o per i mondiali o per manifestazioni più... Ma tu vedi, in un momento così difficile per la nazionale c'è il pubblico che vede gli altri, Gasol che va sempre a giocare, che fa, si scassa una caviglia, certo. giocando l'europeo. Sì, Nowitzki, Parker, sono questi... Nowitzki, Parker, appunto Garbaosa che va a giocare in quella Spagna, campione del mondo. Però aveva gli europei in casa. Bisogna anche, secondo me, valutare il momento e l'impegno. Il torneo che c'è. Sì, nel senso che io credo che Garbaosa, magari in una situazione diversa, non sarebbe andato, magari non c'è la controprova. Però bisogna vedere. Ci vuole la volontà loro, sicura. Ci vuole la nazionale, insomma, che vada incontro a determinate loro esigenze. Se devono arrivare magari una settimana dopo, fare una preparazione diversa, credo che non sia così offensivo nemmeno per i compagni. Insomma, certo. Lo puoi accettare, di loro c'è bisogno, sicuramente sì, ripeto, è una situazione da gestire bene, conta molto la loro voglia e conta anche però l'essere tirati dalla giacchetta da due situazioni diverse, insomma. Certo. Gallinari, non so se siete d'accordo, secondo me è anche una questione fisica, cioè non dimentichiamo che lui ha fatto la prima stagione da 82 partite o comunque una stagione praticamente intera dopo l'infortunio alla schiena, molto probabilmente avrà anche necessità di fare un check sulle sue condizioni. No, sicuramente, poi l'estate per New York è decisiva con il famoso discorso dei free agent, chi viene, chi non viene, insomma sono due anni che aspettano questa estate per costruire una squadra vincente del futuro. È chiaro che lui può essere un perno di questa squadra, però deve potenziarsi ancora fisicamente, deve star bene, deve chiudere tutto. E poi secondo me è anche un po' eccessivo alle volte dire che se loro non vengono è perché loro non vogliono, ecco, insomma la situazione è un po' più complessa. Complicata. È chiaro che a me avessero detto in nazionale ci andavo a nuoto sempre, però non ho mai vissuto una situazione del genere, non lo so. Flavio, come vanno i tuoi amici di Facebook? I miei amici di Facebook vanno assolutamente bene. Sei contento che l'ho detto? Sì, assolutamente. bravo. Il gruppo di Pallaspeak, tra l'altro ci sono diverse domande, tra cui una che volevo fare a Davide Pessina. Fagliela che poi, sì, certo. Poi andiamo da Emilio. Cosa succede a Biella? Dice, secondo me si sono montati la testa e forse la delusione dell'anno. Secondo me è un po' cattivo questo messaggio. Cattivo, probabilmente un tifoso deluso. Roberto da Torino. Biella ha avuto una stagione straordinaria l'anno scorso. Quest'anno per la prima volta ha giocato anche la Coppa, che sembra poco, però comunque lo spezzare la settimana, viaggiare, giocare altre partite in qualche modo ti può condizionare se non sei abituato, se non sei anche allenato mentalmente al doppio impegno. Ha avuto sfortuna, ha avuto problemi di infortuni. Infortuni, per quello che dicevo, cui, cattivo in generale. No, certo. Poi è una squadra che secondo me è meglio di quello che sta facendo vedere ultimamente, anche adesso con questo roster. Poi è una stagione che, ripeto, dove due cose vanno male, perdi fiducia, la chimica non è più quella dell'anno scorso, allora rischi pesantemente, perché Biella rischia. Alla fine vive ancora sullo straordinario, sull'ottimo girone di andata che ha fatto. Perché adesso effettivamente sta facendo fatica, però è una società seria, con un pubblico serio, con basi solide, per cui io credo che sia una stagione, insomma, di anche questa si può prendere come una crisi di crescita, perché certo, per la prima volta, ripeto, ti trovi a fare la Coppa, sei reduce da una semifinale, quindi le aspettative anche tu involontariamente si alzano. Direi che Ghis non li trovi tutti i giorni, certo, insomma. Sì, sicuramente. Poi ti ripeto, gli infortuni, insomma, con... Se Fred Jones è un giocatore che poteva essere molto importante. Molto importante, poteva essere il punto di riferimento offensivo di questa squadra, e di fatto non c'è mai stato. No, se non all'inizio, quando peraltro vincevano. Sì, anche, e non a pieno regime. Esatto. Emilio, buongiorno. Buongiorno. Io volevo fare una domanda, forse non so se è un tema o meno. Volevo sapere se voi avete notizie del grande Bobby Morse, il compagno, ex compagno di Lomeneghin, perché sono stato un grande appassionato di questi due agli anni 70, io sono venuto dall'America quell'anno, in quegli anni, quindi mi mancava l'NBA, però mi sono rifugiato in questo nell'Ignis, che certo, mi è piaciuto molto. Ci mancherà. Si è rifugiato bene. Si è rifugiato mi bene. Sono accontentato, diciamo. Come no, giocatore dei Knicks. Era tifoso dei Knicks, non potendoli vedere tutti i giorni in TV come capita adesso, ha trovato un... Sì. Bob Morton, non so esattamente ora in cosa si è impegnato, però... Credo che sia insegnante di italiano in un liceo negli Stati Uniti. Sì. L'ultima notizia che avevo captato era questa. Poi credo non tanto tempo fa fosse venuto a Varese, gli è andato a cittadinanza onoraria, a una festa, insomma... Sì, ha avuto anche un periodo poco felice dal punto di vista della salute, ha avuto un problema di polmonite, però chiaramente ha risolto, però è stato qui credo l'anno scorso, nel 2009, per avere il... Comunque anche qui non vorrei dire un'enorme bestialità, ma credo sia insegnante di italiano in un liceo, adesso dove negli Stati Uniti non saprei dirlo esattamente. Comunque la cittadinanza l'ha ottenuta l'anno scorso, 25 maggio del 2009, quindi... Quindi queste le ultime notizie su Bob Morse. Potrebbe essere utile anche il tuo Facebook, magari. Lo sa. Potrebbe. No, tornerei invece a parlare di altri temi. Uno di questi è Pesaro. Uh-huh. Se ne parlava prima. Aria di burrasco, di maretta comunque a Pesaro, nonostante c'era la finale di Euro Challenge, che non è ovviamente l'Eurolega, però ce la fai, è meglio arrivare in finale che uscire prima. Come notava Vellucci molto polemicamente, qui non ci vengono a vedere, ci snobbano eccetera, però non è che Pesaro aveva vinto 1000 scudetti o 100 coppe, una coppa delle coppe 30 anni fa e basta. Separata fuori dalle sabbie mobili della lotta alla retrocessione, chi l'ha vista dice che è la squadra più in forma del momento. Ha trovato equilibrio, ha trovato anche lì salute, perché è partita malissimo, poi problema di Eric Williams, qualche problema di comprensione credo tra coach Dalmonte e Marquise Green, adesso sembra tutto alle spalle. Credo che il grosso problema, il grosso punto interrogativo adesso a Pesaro sia proprio dal punto di vista societario, perché Vellucci continua a dire che comunque venderà, e bisognerà vedere se venderà davvero e chi eventualmente può rilevare la società, ecco, per dare un futuro credo all'altezza della tradizione di Pesaro. Pesaro che ha avuto una stagione travagliata, però adesso sì, si può dire che probabilmente fuori dalle sabbie mobili della lotta a salvezza e può cominciare a pensare all'anno prossimo, però c'è questo grosso punto interrogativo. Comunque aveva ragione, per tornare a Bob Morse, aveva ragione Davide Pessina, lui lavorava come agente finanziario prima e poi adesso è insegnante, docente di lingua e letteratura italiana a St. Mary's College di Notre Dame, nell'Indiana, quindi questo è l'occupazione di Bob Morse, che peraltro in un'intervista recente, cioè quando aveva ottenuto la cittadinanza italiana, aveva ringraziato proprio l'Italia per quello che gli aveva dato, tra l'altro anche questa opportunità di insegnare la lingua italiana agli americani. Davide, ti giro un'altra impressione che ho invece io, al di là dello screzzo, anzi di più, tra Banchi e Frates, Siena ha fatto una gran fatica a Montegranaro, l'impressione è che non domini più come prima, al di là dei riscontri numerici, cioè vittorie sì, anche abbastanza larghe, ma non più di 20, 30, 35. È un momento così, le altre sono cresciute o c'è qualcosa che non va in questa ultima primavera di Siena, in quest'ultima primavera di questa squadra che poi cambierà l'anno prossimo? Sì, molto probabilmente questo gruppo è arrivato a fine corsa, ma io credo che ci sia un po' di stanchezza, logoramento quasi fisiologico nel Montepaschi. Da qui a dire che non è che nei playoff possa cambiare qualcosa, non credo, perché comunque non è una partita secca, ma sono da vincere 3 o 4 e la vedo francamente difficile allo stato attuale. È vero che mi sembrano un po' più nervosi, soprattutto i giocatori, anche McIntyre, sì, insomma anche con la storia di Maestranza ha avuto una reazione anche lui, sembrano un po' più stanchi, un po' più nervosi, questo sicuro, però la belva ferita fosse ancora più pericolosa. Sì. Io credo che insomma quest'anno debbano ancora ovviamente far tutti i conti con loro e vincerne 3 o 4 al momento mi sembra difficile. Poi mi sembra anche abbastanza altrettanto evidente che questo sia un gruppo a fine corsa, perché l'obiettivo era e credo sarà ancora provare a vincere questa benedetta Eurolega, e questa squadra ha dimostrato che per quanto sia una squadra meravigliosa, straordinaria, che vada oltre i loro limiti, questo secondo me non puoi chiedere di più a una squadra, a un gruppo, che giocare al massimo di quello che possono, forse manca qualcosina. E allora se devi cambiare qualcosa, io credo che debbano toccare qualcosa nel nucleo. Certo. E quindi dall'anno prossimo vedremo una Siena abbastanza rinnovata. Palla spicchi. Ecco che torniamo, sempre con noi Davide Pessina ed è arrivato anche Flavio Tranquillo. Ciao Flavio. Buongiorno. Buongiorno a lei. Impressioni sulla prima settimana di playoff dall'altra parte dell'oceano? Una bella centrifuga, forse perché ci stiamo lavorando molto, perché succedono tante cose, perché è cambiata proprio la velocità da tutti i punti di vista del gioco e dell'attenzione anche con cui li seguiamo e vengono seguiti. La sorpresa maggiore è il 2-0 dei Celtics su Miami, i Lakers e Cleveland che perdono una partita in serie che sembravano semplici, forse più di quanto in realtà non sono, dove o l'1-1 tra San Antonio e Dallas, oppure Phoenix che va a fare colpo a Portland nella notte e va sul 2-1, qual è stata la grande sorpresa fin qui secondo te? Ma guarda, enormi sorprese non ce ne sono, credo che fosse lecito attendersi che magari Oklahoma City pagasse di più lo scotto del noviziato, questo personalmente credo sia la maggiore sorpresa. Da un punto di vista di fascino direi che la gara 2 degli Spurs è quella che pone le domande più interessanti, ovvero sia quanto è duplicabile, se è duplicabile, perché quel tipo di pallacanestro è quella che ha prodotto 4 titoli per gli Spurs, non produce da sola un titolo, però fa degli Spurs un'assoluta contender, come dicono dall'altra parte dell'oceano, cioè pretendente per il titolo. Idem sui Lakers e sui Celtics, la curiosità di vedere che cosa succede andando avanti, perché una cosa è giocare una settimana, una cosa è giocarne 8. Ragazzi, guardiamo un attimo, torniamo ai temi italiani, visto che nel weekend racconterete anche degli spareggi, no? Comincia la stagione dei Nervitesi, l'abbiamo detto prima, e degli spareggi. Davide, tu sarai Avellino a raccontare Avellino Cantù, che è una partita molto, molto importante per gli equilibri di classifica, no? Sì, per i playoff, Cantù che cerca di rimanere nelle prime 4 e Avellino che vuole garantirsi questo 8° posto. Come la vedi? La vedo che Cantù mi sembrava in ottima condizione, reduce da una serie di vittorie anche contro squadre di alto livello, poi ha perso con Ferrara, però insomma ci può stare. Avellino in casa più costante che in trasferta, per cui io credo che possa essere una sfida pari insomma fino alla fine. Flavio, a te toccherà invece il racconto di un'altra partita cardine, no? Milano-Roma, mi verrebbe da fare una battutaccia, morti contro feriti gravi, ma magari non è così. Beh, diciamo che sicuramente vengono percepiti così, il che forse alla fine rappresenta il problema. Non so quanto siano morti, non so quanto siano feriti gravi in assoluto, così vengono percepiti rispetto alle aspettative. Penso che sarà la quintessenza di quest'ultimo paio di stagioni tra Milano e Roma. Presumibilmente ci sarà una squadra che vince e che però non avrà risolto tutti i problemi, è una squadra che perde, che si sentirà ancor più ferita gravemente, se non addirittura morta. Non è solo percezione, c'è anche della sostanza, però credo che la percezione rispetto a quelle aspettative e l'incapacità proprio rispetto alle proprie aspettative, lasciamo perdere quelle degli altri, di riuscire a colmare questo disavanzo sia il problema in questo momento di Milano-Roma. Sì, Milano e Virtus, due squadre che insomma in teoria sono a caccia alla finale prima di andarsi a schiantare come tutte le altre contro Siena. Milano e Virtus Bologna, che situazioni molto diverse, che però sono a caccia in cerca di un organico definito e definitivo in prospettiva playoff. Davide, si è fatto male anche Koponen, Leroy Hard non ha mai convinto, adesso forse è al capolinea della sua avventura bolognese. Certo, la Virtus arriva in questo finale di stagione un po' col motore spento, mi sembra. Sì, anche perché perde Koponen, che in questo momento forse era il suo giocatore migliore, per freschezza atletica, per personalità, per convinzione, per cui questo insomma darà un problema alla società, a Lardo sostituirlo. E qui secondo me ci si ricollega al discorso che facevamo prima per Milano, cioè Petravičius e Acker. Qui c'è Leroy Hard da tagliare o no, e Koponen che è infortunato, quindi cosa fai? Prendi un esterno comunitario, ma ci parlava di Vujanic magari, sì, per poi prendere al posto di Hard un lungo extracomunitario, o viceversa, un lungo comunitario per prendere l'esterno extracomunitario. Insomma, sono scelte non facili, giocatori di livello ce ne pochi che possano davvero magari cambiarti la faccia della squadra in così poco tempo, ce n'è pochi se non pochissimi, per cui insomma non è una situazione facile. Certo, è anche una situazione paradossale, Flavio, arrivi a fare questi ragionamenti il 23 di aprile. Sì, è ovvio che poi quando arrivi a farli per questioni di infortunio bisogna tenere presente che il trauma è sempre dietro l'angolo, purtroppo, e questo è diciamo il 50 o il 70 o l'80% del discorso. La restante parte del discorso è naturalmente che non è costruito sufficienti certezze, però su questo argomento ormai credo si sia potuta fare una specie di enciclopedia, di Wikipedia del cesto, e le certezze non ci sono, e pensare di recuperare il 29 aprile andando a pescare in questo ipotetico mercato che non è esattamente quello del Gallia dei tempi di Savoldi, occorre che sia difficile. Ragazzi, io vorrei una vostra opinione anche su un'altra cosa che faccio un po' fatica a capire. Prima se ne parlava con Davide a microfoni spenti, ma mi spiegate perché? Avete un'idea del motivo per cui si arrivano a giocare i playoff così tardi accavallando nei mondiali di calcio? Anche televisivamente parlando mi sembra abbastanza una follia. Cioè, abbiamo tirato in lungo la stagione regolare, la tiriamo in lungo fino al 16 di maggio, data in cui finisce anche il campionato di calcio, e poi da lì cominciano i playoff. Ma perché? C'è qualcuno che ha domandato motivi o lumi su questa situazione? Flavio? No, io non ho domandato motivi e lumi. Per quello che posso capire c'è una paura, terrore, renitenza a giocare più di una volta alla settimana. E quando la stessa arriva da quelli che discettano di come la regular season NBA sia una gran rottura di scatole, magari si fa considerare che ci sono delle settimane con 5 partite, ecco, probabilmente bisognerebbe mettersi d'accordo da quel punto di vista, però anche qui dicono un po' più a sud di Milano, dove c'è gusto non c'è perdenza, se va bene a quelli che organizzano è una loro scelta. Davide? E io sì, anch'io francamente non me lo so spiegare, non c'è stato un infrasettimanale in tutto l'anno. Io capisco che c'erano le coppe, però adesso nell'ultimo mese, mese e mezzo, c'era possibilità di mettere partite infrasettimanali per cominciare i playoff prima, anche perché poi da quando cominciano i playoff si gioca ogni 2-3 giorni, quindi devono abituarsi a giocare molto in fretta, e in più non vai contro i mondiali, che secondo me in effetti insomma riuscire a finire prima possibile per non andare contro i mondiali, sia televisivamente ma non solo, credo che anche per spazi sui media, per possibilità insomma di avere una certa attenzione, potesse essere una buona idea. Sì. Grazie Flavio, ci sentiamo domenica. Grazie a voi. Ciao. Grazie. Grazie a Flavio Tranquillo, con cui naturalmente torneremo a parlare, come sapete, domenica dalle 8:30 alle 9 siamo qui per raccontarvi l'esito della della giornata di basket, è a questo punto particolarmente interessante, perché tra ammucchiata in vista di... come finisce l'ammucchiata secondo te? Ah, beh, è proprio una bella domanda, non ho idea, perché ogni settimana poi non sai, ti sembra, non so, invento la Virtus Bologna, sembrava quella che stesse seconda, meglio dopo poi, la Coppa Italia, poi l'infortunio, mica l'infortunio, perde male a Pesaro, oppure Cantù che sembrava, ecco, ha trovato equilibrio, è veramente l'antisiena, perde in casa, cioè di settimana in settimana i punti di riferimento cambiano, a parte Siena, direi che tutto il resto è in continuo movimento. Non so se è sintomo di forza o di debolezza, questo non lo so, temo la seconda che ho detto, di il fatto che le altre sì. No, è che come ci diceva con Flavio poco fa, cercare le non c'è mai certezze, ci sono squadre che ogni anno ricostruiscono e non trovano mai certezze durante l'anno, e quindi non sai mai come può andare a finire. Peraltro Flavio diceva che ci sono i traumi e giustamente sono dietro l'angolo, però ci sono anche, abbiamo visto che in questa stagione ci sono traumi e traumi, perché quello di Hacker è un trauma, è un infortunio, sì, che è stato prolungato in agonia lunga 4 mesi. Cioè, sì, questo... anche lì, perché c'è infortunio, se muscolare o non muscolare, insomma sono chiaramente situazioni differenti, però è sempre successo che ci fosse il rischio che qualcuno si infortunasse, è chiaro che più sei solido più è facile in teoria assorbire l'impatto di un infortunio anche a un giocatore importante. Davide, grazie. Grazie viaggio, a voi. Grazie. Ti aspettiamo qui naturalmente a Stretto Giro di Posta. Grazie a Flavio Suardi, allora, anche Franco Piantanida in redazione, Fabio Cantadone in regia. Con lo sport ci sentiamo domani dalle 5 alle 6, aspettando Inter-Atalanta con Balotelli in campo, credo. Convocato. Per ora convocato. Ma in campo? Secondo me stavolta sì. Ragazzo vai a giocare, ti avrà detto Mourinho. Sì. Mamma mia, sentiamo domani.